Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Venerdì 6 ottobre 2017, per la terza stagione consecutiva, ritorna Picchi di Frequenza. Questa sera parleremo di orsi in compagnia di Filippo Zibordi, racconteremo la frana del Cengalo della scorsa estate, ma avremo anche tante notizie e segnalazioni di montagna. Con me Luca Trada, Martino, Paolo, al microfono Abo, e questa è Picchi di Frequenza. È lunedì, è mezzogiorno passato. Il furgone è già stipato delle vettovaglie e delle attrezzature di fornelli in lotta. Mi è rimasto giusto un angolino per infilarci la tenda, infatti sono qui a smontarla. I volontari del festival smembrano gazebo, fanno pulizia, chiacchierano, ridono. Scambiano due chiacchiere con un compagno della valle che perlustra l'area campeggio alla ricerca di immondizia. Sono rimaste poche tende ormai, sparpagliate. C'è quell'area irreale di certe domeniche mattine d'agosto in città. Gli ultimi ospiti, ancora in circolazione, sembrano camminare su cuscinetti d'aria, silenziosi ma presenti, ben evidenti, come pesche mature su un albero. E io pure mi sento così, sospeso. Questa è l'apertura di un brano dal titolo Alta Felicità 2017, una camminata racconto lunga 4 giorni. Dopo il Festival di Alpinismo Molotov ci siamo lasciati lo scorso luglio con l'Alta Felicità, il festival di 3-4 giorni no TAV che a Venaus ha animato, come dire, l'estate della bassa valle di Susa. Con qualche mese di ritardo arriva lo scorso 26 settembre un racconto collettivo, una collezione di impressioni su quei 4 giorni, e lo trovate appunto sul blog di Alpinismo Molotov, su cui poi torneremo in realtà in chiusura di puntata. Il secondo brano di oggi ci viene da mountcity.it, il titolo è No a nuovi impianti, albergatori schierati in difesa del Devero. Per chi non lo conoscesse, l'Alpe Devero è una, insomma, delle più belle valli del alpine del Piemonte. A schierarsi contro questo progetto di collegamento con l'attigua area di Ciamporino, di cui da tempo si parla, sono 3 albergatori del Devero. La lettera è dello scorso 25 settembre, Alessandro Francioli, Luca Vanini e Michele Galmarini del rifugio Castiglioni, gestito dal CAI di Gallarate, chiedono che questo collegamento non venga fatto. È una richiesta dirompente, questa degli albergatori, che dimostra che si può vivere di turismo anche e meglio con il modello Devero, e che ora sono gli stessi operatori turistici a opporsi a un modello vecchio e perdente. Prima che arrivino le ruspe, l'articolo continua, quindi per chi vuole approfondire questa piccola resistenza all'Alpe Devero contro gli impianti impattanti, Mount City è un riferimento di sicuro interesse. Terzo ed ultimo brano, perché di materiale oggi ne abbiamo parecchio per questa apertura di stagione, la lettera di Roberto, guida e gestore di un bed and breakfast distrutto nel terremoto. Guida Igae, proprietario di un bed and breakfast, Roberto Di Filippo, racconta dal suo punto di vista il terremoto del centro Italia. Una vita al lavoro in montagna nel bed and breakfast per accogliere in casa ospiti, amici, i giovani delle scuole con i progetti di educazione ambientale, per le avventure sui sentieri della Laga e dell'Appennino. Un sorriso mi fa ricordare dove avevamo amato, cantato, giocato, cucinato, insegnato, sognato, mangiato e pianto. Avrei voluto altri giorni sereni, il ricordo di mio padre muratore con cui avevo costruito il sogno, orgogliosi di far conoscere la natura e la storia del Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga. Sfioro la sua spalla mentre lo rivedo chinato a finire il pavimento di legno nella stanza da letto. Non troverete la mia abitazione nella frazione di Prato ad attendervi. Separarsi da quel che avevamo costruito con amore è doloroso. Dalle macerie ho recuperato un mattone rosso del camino, cuore della mia storia. Ora non riesco a guardare quel che resta, dovrà essere demolito e poi ricostruito. Un brutto sogno è diventato realtà. Questo rimane del villaggio, fonte di ispirazione del turismo naturalistico, in una terra devastata dal terremoto. La lettera diventa poi una sorta di così di auto-intervista. E quindi Roberto Di Filippo, se volete leggerlo su montagna.tv, l'articolo redazionale dello scorso 25 settembre. Come già accadde nel 2014 con la tragica vicenda dell'Orsa Danica, anche le cronache di quest'estate hanno visto per protagonista un orso, KJ2, che in Trentino prima è stato accusato di aver ferito e messo a repentaglio la sicurezza di uomini e armenti e poi è stato ucciso, con tutte le conseguenze del caso, polemiche, schieramenti contrapposti, manifestazioni di ambientalisti e animalisti che hanno minacciato il boicottaggio del turismo nella provincia autonoma di Trento. Ma qual è oggi la situazione degli orsi sulle nostre Alpi? C'è posto per questo plantigrado? Può convivere l'orso con l'antropizzazione, con le paure, con le insicurezze? Può continuare il suo vagabondare erratico senza patria e confini da una parte all'altra delle Alpi, come sempre è stato nella storia? Ne parliamo con Filippo Zibordi, naturalista che da parecchi anni svolge un'attività di ricerca e di conservazione di quella che è la biodiversità faunistica sulle nostre Alpi e che ha partecipato a parecchi progetti di reintroduzione appunto dell'orso. Recentemente ha scritto un libro, Gli orsi delle Alpi, chi sono e come vivono, e oggi proviamo a capire con lui meglio quale può essere il destino e il futuro appunto della presenza degli orsi sulle nostre montagne. Ciao Filippo, buondì. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti, io ho introdotto appunto parlando di questa vicenda estiva dell'orso KJ2 che come Danica nel 2014 è stato al centro delle cronache e poi ha avuto appunto un epilogo tragico. E partirei proprio dal tuo libro, Gli orsi nelle Alpi, proprio per chiederti innanzitutto, all'interno della tua attività naturalista, di studioso della fauna alpina, cosa ti ha portato, qual è stata l'esigenza di scrivere appunto un libro sugli orsi? Ma l'esigenza deriva dal fatto che di orsi si parla tanto, ma gli orsi sono una specie molto poco conosciuta. Sono poco conosciuta sia da chi vive lontano dalle aree di presenza degli orsi, sia ancora di più e ancora peggio da chi invece è in qualche modo costretto a condividere il proprio territorio con questa specie. E qual è secondo te oggi la situazione dell'orso sulle nostre Alpi? Ma partiamo dai numeri. Grazie a un progetto di reintroduzione che è stato avviato dal Parco Naturale Adamello Brenta in Trentino, gli orsi oggi sono circa una sessantina, sono concentrati nelle Alpi centrali, quindi in sostanza nel Trentino occidentale, però alcuni individui si spostano in maniera sporadica anche nelle zone alpine della Lombardia, in Alto Adige e in Veneto. Alcuni hanno anche raggiunto il Friuli e sono tornati a collegarsi con la popolazione cosiddetta sorgente della Slovenia. Quindi una situazione tutto sommato positiva, molto diversa da quella che c'era sulle Alpi una ventina di anni fa, quando gli orsi erano sostanzialmente estinti, ne erano rimasti solo due o tre in Trentino, una situazione tutto sommato positiva, però dal punto di vista numerico, però che desta alcune preoccupazioni per quello che è l'accettazione sociale che viene data a questa specie. Infatti rispetto a qualche anno fa, oggi la percezione, quindi diciamo il sentimento di chi appunto vive in Trentino, in Alto Adige, in Veneto, sentimento nei confronti dell'orso è sostanzialmente negativo nella maggior parte dei casi. Ma cos'è che spaventa dell'orso? Il fatto che non ha confini, che giustamente non capisce il limite tra bosco e proprietà privata, o è veramente aggressivo come spesso ci si vuol far credere? Allora, l'orso è una specie particolare, a me piace dire, lo scrivo anche più volte nel libro, che l'orso è una specie straordinaria non tanto perché è grande come noi o va in letargo oppure è un animale onnivoro, ma straordinaria per il rapporto che ci lega, che lega uomini e orsi fin dalla notte dei tempi, fin dagli uomini di Neanderthal che idolatravano gli orsi, che pensavano, che attribuivano agli orsi delle, tutto sommato, delle caratteristiche anche divine. Non ci lascia indifferenti e quindi in realtà suscita molto interesse. Questo interesse spesso viene amplificato in maniera come normale che sia, anche per esempio dai danni che gli orsi compiono alle greggi. Appunto, ricordiamo che gli orsi sono animali grandi, capaci di gesti anche molto violenti, e quindi se trovano delle greggi incustodite o non custodite nel modo giusto, approfittano, quindi uccidono qualche capo per nutrirsene, e quindi in qualche modo scorre il sangue, e questo sangue crea dei cortocircuiti tra opinione pubblica, mass media e politica, che finiscono per fare anche il male dell'orso, nel senso che l'orso viene di nuovo ammantato, proprio come è successo nei secoli, ammantato di caratteristiche che in realtà non appartengono alla sua realtà in carne ed ossa. L'orso non è un animale aggressivo, è un animale dall'indole particolarmente pacifica, però è un animale che può diventare pericoloso. Immaginiamoci appunto una bestia che può raggiungere i 200, addirittura 300 kg. È un animale che tendenzialmente evita gli incontri con l'uomo, perché è un animale che riesce a sentire la nostra presenza grazie al potente olfatto e all'udito da distanza, però in qualche caso, se colto di sorpresa, chiaramente l'orso può reagire per autodifesa, e questi sono i casi che in realtà in numero statisticamente insignificante, ma sono i casi che si sono verificati negli ultimi 3-4 anni in Trentino e di cui tanto abbiamo sentito parlare. Certo, ma nella tua attività di questi anni, durante i tentativi di ripopolamento, hai avuto anche problemi, hai dovuto scontrarti un po' anche con le comunità locali, o viceversa, in una fase iniziale c'era, come dire, un'accoglienza benevola? Ma sì, è molto cambiata la percezione della specie, ma per più motivi, nel senso che nei primi anni gli orsi, sostanzialmente appunto quei 2-3 orsi rimasti in Trentino, erano sostanzialmente dei fantasmi, cioè nessuno li vedeva, appunto erano vecchi e probabilmente erano i figli dei figli degli ultimi orsi più schivi che c'erano in giro, erano riusciti a sopravvivere proprio per questa loro, per queste loro caratteristiche proprio di evitamento degli incontri, e quindi sostanzialmente la gente, nel momento in cui sono stati riportati gli orsi, appunto ricordo 10 orsi sono stati catturati in Slovenia e trasferiti in Trentino per dare inizio al progetto di reintroduzione Life Ursus, la gente sostanzialmente non aveva tanto idea di cosa fosse l'orso, e quindi anche lì c'era in realtà forse un'aspettativa, non dico mal riposta, però nessuno si pensava a quelli che avrebbero potuto essere i problemi, si pensava all'orso come Yogi, come Bubu, come uno dei protagonisti bonari dei cartoni animati. In realtà la presenza dell'orso ha effettivamente portato, e porta ovunque l'orso sia presente, a dei problemi, come dicevo prima, problemi più che altro legati ad alcune attività tradizionali. Ecco, tu parlavi appunto di problemi per la pastorizia, ma l'aggressività dell'orso è più, come dire, tu dicevi che non è di indole aggressiva, quindi possiamo dire che è un po' è l'antropizzazione a volte eccessiva delle nostre Alpi a creare più problemi all'orso di quanto l'orso li possa creare all'uomo? Ma senz'altro, questo è vero, però appunto vale la pena sottolineare, appunto, come dicevo, che esistono dei danni, ripeto, che possono essere mitigati, ed esistono delle situazioni conflittuali e quindi potenzialmente pericolose. Questo non va negato, perché diciamo sta alla base anche di tutte le azioni che sono state svolte anche in questi anni da parte della provincia autonoma di Trento, azioni che in molti casi erano giustificate. Poi però quello che i mass media riverberano sul grande pubblico è quello che alcuni partiti politici sfruttano sfruttano o in qualche modo strumentalizzano, è appunto un passo ulteriore che in tutto sommato non andrebbe fatto. Cioè, come dicevo, l'orso è un animale che, se noi pensiamo a quante aggressioni ci sono state negli ultimi 100 anni sulle Alpi, e sono tre, probabilmente con qualche errore inconsapevole però fatto dai malcapitati che si sono trovati faccia a faccia, certo, con l'orso, stiamo parlando di un qualcosa che, ripeto, è insignificante dal punto di vista statistico, però è chiaro che ha un significato per le povere persone che sono, certo, state aggredite. Però appunto, ripeto, se noi dovessimo fare un conto su tutti quelli che sono i rischi di fronte ai quali noi ci troviamo ogni giorno, mi viene sempre in mente quando guidiamo, quando siamo in macchina, ecco, ci sono dei rischi, dovremmo avere molta più paura di tante altre cose, e quindi l'orso senz'altro non deve essere vissuto come un limite alla nostra frequentazione dei boschi. Certo. Senti, nel tuo libro tu parli anche dell'orso come un po' termometro, indicatore dello stato di salute della biodiversità. Ritieni possibile che ci possa essere un ripopolamento anche di altre zone delle nostre Alpi? Ma allora sì, l'importanza dell'orso è senz'altro anche ambientale, perché detto in maniera banale, l'orso è una specie originaria delle Alpi, degli ecosistemi alpini, e quindi la sua presenza non fa che rafforzare sostanzialmente gli ecosistemi. Esistono quindi vasti territori, questo l'abbiamo anche provato in vari studi che sono stati fatti mettendo insieme i dati relativi a tutte le aree che vanno sostanzialmente dalla Lombardia fino alla Slovenia, ci sono un sacco di aree, cioè tante aree che sono idonee dal punto di vista ambientale alla presenza dell'orso, e quindi per esempio anche direi sostanzialmente tutte le zone alpine della Lombardia. Gli orsi infatti si stanno spostando, ogni tanto vagano, sono in grado di compiere ampi spostamenti, e quindi arrivano anche in zone diciamo distanti anche centinaia di chilometri dal Trentino, dalla loro core area, cioè dall'area di presenza stabile. Però ancora una volta torniamo a parlare di uomo, ahimè, nel senso che se l'ambiente è idoneo bisogna verificare, speriamo di poterlo verificare, quale sarà il grado di accettazione sociale che gli uomini sapranno dare alla specie. Cioè, dal punto di vista ambientale l'habitat è idoneo, bisogna vedere un po' quale sarà quello che ogni tanto definiamo habitat politico, cioè il grado di accettazione che verrà dato alla specie. Filippo, io ti ringrazio, e ti ringrazio a nome anche di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Picchi di Frequenza, e che dire, lunga vita agli orsi. Grazie, lunga vita, e un saluto a te e a tutti. La voglia di raccontare, di condividere un ambiente, un panorama, spesso si riferisce immediatamente alla vista, alla capacità di vederlo, al limite all'olfatto. Ecco, io vorrei fare un esperimento invece sul paesaggio sonoro. Non potevo che cominciare da me. Quest'estate, nel corso di un viaggio in Cambogia e Vietnam del Sud, ho fatto qualche registrazione, quindi volevo provare a condividere con voi qualche suono e vediamo come va la cosa, se altri di voi avranno piacere di condividerli invece con noi altri, con la redazione e gli ascoltatori. Si parte dalla giungla, la giungla del sud del Vietnam. Per passare alle sue cascate. Agosto 2017. Siamo in Val Bondasca, nel canton Grigioni in Svizzera, ai confini con la Val Chiavenna e con la Valtellina. Una frana imponente, 4 milioni di metri cubi, si stacca dalla parete nord-est del Cengalo, parete insieme alla vicina nord-est del Badile, che ha visto nel Novecento svolgersi alcune delle più importanti imprese alpinistiche. Una frana che ha travolto villaggi, che ha mutato la morfologia, l'economia, la socialità di una valle che ha causato la morte di 8 escursionisti. Una frana in parte annunciata, perché già negli anni passati dalla stessa parete si erano staccate frane seppur di dimensioni ridotte, e una parete che continua a minacciare la valle con la sua friabilità, con i suoi crolli che anche in questo mese di settembre si sono ripetuti. Quindi qualcuno dirà: e che c'entra tutto questo con i cambiamenti climatici, con la torrida estate 2016, una delle più calde che si ricordino della memoria d'uomo? C'entra sì, secondo noi. C'entra perché, lo diciamo, l'abbiamo detto più volte da queste libere frequenze, i cambiamenti climatici sono già tra noi, il riscaldamento globale del pianeta sta causando, soprattutto alle alte quote, dove un tempo ghiacciai perenni caratterizzavano non solo i paesaggi, ma determinavano anche la solidità e la struttura di intere montagne e valli, stanno generando fenomeni fino a qualche anno fa imprevedibili. Sul Cengalo era presente fino a qualche anno fa una notevole calotta glaciale. Come non pensare che il riscaldamento di quest'estate, lo zero termico che per giorni e giorni è stato sopra i 4.000-4.500 metri d'altitudine, non possa aver generato mutamenti nella morfologia di quella roccia, di quel granito tanto bello ma anche tanto pericoloso quando diventa friabile, perché i distacchi poi generano quello che abbiamo visto. Ma non è la frana del Cengalo l'unico fenomeno che in questa estate appunto ci ha segnalato l'ennesimo campanello di allarme, e non lo sono solo i ghiacciai, che ovviamente hanno sofferto in maniera quasi irreversibile di questo caldo, come è stato definito, tropicale per lunghi periodi. Nel 2017 abbiamo assistito a rifugi che hanno dovuto chiudere perché alimentavano i loro bisogni d'acqua da nevai perenni, da ghiacciai, ed è successo sul Bianco, ma non solo, che ancora a luglio questi rifugi siano rimasti senza acqua. Non è la prima volta, appunto, dicevamo, che parliamo di questi fenomeni, e crediamo però che non ci stancheremo mai di ripeterlo. Serve un netto e deciso cambio di passo, serve non solo da parte di chi, governi e istituzioni internazionali, ha il potere di farlo, che si trovano nuove soluzioni per impedire che appunto il riscaldamento globale muti per sempre ecosistemi e rompa il fragile equilibrio delle terre alte. Spetta a noi tutti, spetta col nostro modo di vivere, col nostro modo di approcciare la montagna, col nostro modo di voler portare la motorizzazione e comunque tutti quegli effetti più deleteri dell'antropizzazione in quelle terre dove invece dovrebbero regnare solamente paesaggi, la fauna, la flora e la maestosità delle montagne. Ecco, ci piace pensare che la Val Bondasca possa ritornare quel paradiso che era fino a pochi anni fa, ma sappiamo che quando certe frane si verificano, il paesaggio non torna più come prima e purtroppo anche la vita degli uomini rimane sconvolta. Ed è per questo che ci auguriamo di non dover più sentire queste notizie. Ci auguriamo che presto il nostro sistema di sviluppo cambi il nostro modo di produrre energia, cambi il nostro modo di consumare, prima che la montagna muoia e con noi e con essa anche un pezzo di noi. Picchi di Frequenza, oltre che uno spazio redazionale, è un momento aperto in cui si condividono alcuni appuntamenti che vivono la montagna e guardano la montagna in maniera magari diversa dal clamore mainstream. Lo facciamo a partire da tre segnalazioni questa settimana. Il primo viene dall'acciaieria di Zam a Milano, Il titolo è Pimp My Climb Party. Sei pieno di insulse magliette senza carattere e allo stesso tempo tristissimo perché non hai mai ricevuto una maglietta acciaieria. Scali sempre sullo stesso grado, sapendo benissimo che con una maglietta acciaieria scaleresti almeno un grado in più. Ecco la soluzione a tutti i tuoi problemi in una sola serata: arrampicata, cibo, birra e la tua maglietta serigrafata al momento con il nuovo logo. Alle Duri vi aspettiamo. Vi aspettiamo dove? In via Sant'Abbondio 10 a Milano. Oggi, in realtà, sostanzialmente in questo momento comincia la festa, ma va avanti fino a mezzanotte se siete in collegamento in diretta e non via podcast. Il secondo appuntamento, abbiamo parlato proprio in apertura di questa puntata di Alpinismo Molotov, è la prima iniziativa dopo il festival della scorsa estate dal titolo Lupo non basta, Alpinismo Molotov intervista Luca Giunti, un'intervista di cui peraltro abbiamo parlato anche nelle scorse settimane. I lupi sono tornati sulle montagne. Quali lupi? Veri, immaginari, a due zampe e perché erano andati via? Domande stimolanti che riguardano la natura e l'umano. Infatti quella del lupo è soprattutto una questione politica. Un dialogo serrato, divertente e scorretto promosso appunto da Alpinismo Molotov presso il Molo di Lilith, via Cigliano 7 a Torino, e trovate anche qui l'evento Facebook sulla pagina dedicata. In terzo luogo ci muoviamo invece dalle parti della Bergamasca, anzi del Bresciano, perché Camunia Escursionismo ci invita il prossimo 14 ottobre ad una gita sociale dal titolo Tra foglie, castagne e vin brûlé, cammino d'autunno sul lago Moro. Anche per questa iniziativa, che vede, insomma, è una di quelle di peso della Camunia Escursionismo, quindi si sarà in parecchi per una brevissima camminata, un'oretta circa, però insomma con l'affaccio sul panorama del lago Moro e il lago d'Iseo. Sentiteli, seguiteli a partire dalla loro pagina Facebook se volete unirvi. Camunia Escursionismo. Si conclude con queste note la prima puntata della terza stagione di Picchi di Frequenza. Io spero vi sia piaciuta, se è così vi invito anzitutto a condividerla, a darci una mano, a far conoscere questa nostra piccola grande trasmissione di montagna che è giunta alla sua 74esima puntata. Come si fa? Anzitutto con il sito internet a monte.info, dove trovate l'archivio completo della nostra trasmissione, e poi perché no dalla pagina Facebook, lì ha sempre Picchi di Frequenza, cercandolo sul noto social network trovate qualcosa, altrimenti su Twitter all'account @abuzzo3. Come di consueto, ormai lo sapete, a partire da questa settimana ritorniamo ogni venerdì alle ore 20 in punto per una mezz'ora di, spero, buona musica, notizie, informazioni, segnalazioni, riflessioni di montagna a 360 gradi. Quindi noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.